Se tu vuoi che io ti ami, dimmelo con le tue mani. E se non capisco è perché io non son fatto per te. Non son fatto per te. Non lo vedi da te che non capisco, che quasi non reagisco ai tuoi perché, che quasi non reagisco all'amore. Illusione galattica di ritrovare in uno spazio immenso l'armonia. È una brutta giornata, tu non sei ancora tornata, non son fatto per te. Non son fatto per te, non lo vedi da te che più non chiedo, che adesso non ci credo ai tuoi perché, che adesso non ci credo ai tuoi perché. E se tu vuoi che io ti tocchi, dimmelo con i tuoi occhi. E se non capisco è perché io non son fatto per te. Non son fatto per te, non lo vedi da te che non capisco, che quasi non reagisco ai tuoi perché. L'amore, illusione fantastica di far volare in alto un cuore pesante come il mio. L'amore, dimmi dove sei stata, è una brutta giornata, tu non sei ancora tornata, sono pazzo perché non lo vedi da te come mi piego. Anche se ancora non mi spiego e mi domando e poi mi chiedo cosa dovrei fare per restare con te. Probabilmente rinunciare, sicuramente rivedere tutto quello che credevo fosse parte di me. Non son fatto per te, no, no, no, no, non son fatto per te, no, no.